La guerra sta impazzando, l'impero sta morendo, Mediterraneo da scoprire. Ore argento in quantità e sangue a volontà nelle corti del Maghreb. Quanti uomini dannati, negando il loro Dio, trovarono libertà. Cattivi redentori, ma come finirà? Tu vieni a liberarmi dalla mia libertà. Cattivi redentori, non va sempre così, portatemi lontano da questo mondo qui. Verso i senti diverso, lui non ha paura, è pronto per l'avventura. Il tempo passa in fretta, troverò in un paio d'anni il regno del prete Gianni. Ed il male è sempre più forte, disegna false rotte, sconfiggerò la morte. Cattivi redentori, ma come finirà? Tu vieni a liberarmi dalla mia libertà. Cattivi redentori, non va sempre così, portatemi lontano da questo mondo qui. Ma come finirà? Tu vieni a liberarmi dalla mia libertà. Cattivi redentori, non va sempre così, portatemi lontano da questo mondo qui. Oh! Cattivi redentori.